Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 64, una puntata questa che parte subito con il King, con il grande B.B. King, che proprio pochi giorni fa ci ha lasciati. Era malato da tempo di diabete e a Las Vegas è scomparso uno dei più grandi rappresentanti del blues, che ha traghettato il blues dal dopoguerra ad oggi, con grandi successi ovunque, con grande seguito di pubblico, con grande stima degli stessi colleghi, anche appartenenti ad altri linguaggi musicali, che hanno sempre visto in B.B. King non solo l'ambasciatore per eccellenza del grande blues, ma anche un musicista di grande sensibilità e di grandi capacità espressive dal punto di vista musicale. Ricordiamo che è stato riconosciuto come una sorta di maestro, di ispiratore di tanti musicisti importanti. Lo stesso Eric Clapton ha sempre riconosciuto di essere stato in qualche modo così stimolato dalle musiche, dallo stile espressivo di B.B. King. B.B. King, personaggio molto particolare, interessante, che ha sicuramente segnato il blues internazionale, il blues elettrico, e che stasera potremo ascoltare grazie a una delle tante pubblicazioni discografiche che ci ha lasciato. Attraverso queste pubblicazioni discografiche lo potremo mantenere vivo nei nostri ascolti, nel nostro cuore. Ci sono tantissimi CD registrati in studio, tantissimi live, quindi ci sarà sempre l'occasione di mantenere vivo l'ascolto di questo straordinario bluesman, che stasera potremo ascoltare attraverso un progetto discografico del 2000 intitolato Making Love is Good for You, e il pezzo che ho selezionato per voi è intitolato Ain't No One Like My Baby. Buon ascolto quindi con B.B. King e la sua band. Nobody like my baby. That's the reason I for Sue. People, I would even die for her. I want the whole round world to know. When I'm down, she picks me up. She says, Daddy, you can't lose. Oh, when I'm down, she picks me up. Tell me, baby, you can't lose. When all of my friends forget about me, my baby keeps away all these blues. Questo era il mitico B.B. King con la sua voce particolare, grintosa, e la sua chitarra, la sua Lucille, sempre inconfondibile con le sue sonorità, la sua fluidità. Tutti ormai conoscono la storia di Lucille, ma per coloro che non la conoscono, Lucille, che è appunto la sua fedele chitarra, ha una storia particolare. Alla fine degli anni 40, mi pare nel 1949, nell'Arkansas, in una cittadina dove B.B. King stava suonando in un locale, c'era molto freddo e avevano messo una stufa a cherosene, più che una stufa era un bidone con del cherosene acceso per scaldare l'ambiente, un ambiente appunto piuttosto povero, quindi anche i mezzi per riscaldarlo non erano così sofisticati, così particolari, era proprio un bidone con del cherosene. E erano tempi particolari e anche locali particolari nei quali i litigi erano frequenti, e due cominciarono a litigare fortemente, a picchiarsi, finché uno andò a finire sopra questo bidone di cherosene rovesciandolo e incendiando il locale. Fu un incendio immediato, tutti scapparono, chiaramente scappò anche il nostro chitarrista. Quando fu fuori si rese conto di aver lasciato dentro, nella fretta e furia della fuga, la sua chitarra, e quindi, sfidando le fiamme che erano già diffuse nel locale, ritornò all'interno per salvare la sua chitarra. Non è finita qui. Non si seppe lì per lì la ragione del litigio di questi due personaggi, ma poi si venne a sapere che erano innamorati nella stessa donna, che si erano quindi bisticciati, si erano picchiati, e tutto era accaduto per questa donna che amavano e che avevano in comune come amore, che si contendevano. Questa donna si seppe che portava il nome di Lucille, e da quel giorno B.B. King dette il nome Lucille alla sua chitarra per ricordarsi di non lottare mai, di non bisticciarsi mai per una donna dopo quell'esperienza. E quindi questa Lucille l'ha accompagnato per tutta la vita, è stata la sua chitarra mitica, alla quale poi ha dedicato anche una canzone, ha dedicato anche un pezzo. E proseguiamo quindi la nostra trasmissione adesso con un po' di blues italiano, anche se mixato con personaggi internazionali. Vi voglio presentare Vince Vallicelli, uno dei più interessanti, più validi batteristi blues della scena non solo nazionale, che si presenta in Blues Fires ancora una volta con un CD vissuto come leader. Il CD è intitolato New Blues, Vince Vallicelli Band, guest James Thompson. Il CD vede la presenza, oltre a Vince Vallicelli alla batteria, di James Thompson, appunto, che ho appena citato, alla voce, al sax e al flauto, il grandissimo Pippo Guarnera all'organo Hammond e poi Marco Bovi alla chitarra. Ci sono un paio di composizioni originali in questo CD, una è quella che proprio ho scelto per voi ed è intitolata Are Are. Buon ascolto quindi con Vince Vallicelli dal CD New Blues. Thank you. alla batteria Vince Vanicelli. See my babe, you bet they're feeling down. Cause you know you're feeling the lonely feel around. I said, hottie, hottie, ha. I said, hottie, hottie, ha. Everybody. I said, hottie, hottie, ha. Hottie, hottie, ha. Bene, questo era il validissimo batterista e compositore Vince Vallicelli, che con la sua band, formata in questo caso da James Thompson, che in questo CD non solo canta ma suona anche il sax e il flauto, il famosissimo Pippo Guarnera all'organo Hammond C3, Marco Bovi alla chitarra, ha realizzato un progetto discografico veramente molto stimolante, con composizioni originali e con interpretazioni di autori non solo in ambito blues. Per esempio c'è anche un'interpretazione di un pezzo scritto da Herbie Hancock, vissuto veramente con grande originalità. Il pezzo che ci siamo ascoltati stasera era Are Are, una composizione originale di Vince Vallicelli, tratto dal CD New Blues. E adesso andiamo avanti con un grande a livello internazionale, uno dei musicisti considerati tra i più interessanti del panorama mondiale di blues, Elvin Bishop, che nel 2014 ha realizzato un CD intitolato Can't Even Do Wrong Right, e il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è proprio quello che dà il titolo al CD. Elvin Bishop, abbiamo avuto occasione di ospitarlo con tante sue produzioni discografiche, questa è tra le più interessanti di tutte quelle che ho ascoltato di questo grande artista. Buon ascolto quindi con Elvin Bishop. The nerve to think he's slick, but he ain't. He messes up every time. Oh, to tell you the truth, the dude can't even do wrong right. Maurice took a notion to rip off the house down the street. Heard they had a whole lot of real good weed. He snuck around back and made it in the house okay, and he located the stash and he rolled up with Jay. He got high and hungry, wanted something to eat, went in the kitchen and ate up every damn thing he could see. But man, between the food and the weed, he sat down on the couch and he went to sleep. He got caught in the middle of the night. Oh, ain't it a shame, the dude can't even do wrong right. Got him a new car, went out to celebrate, got hung up at the bar and started running late. Jumped back in his ride and hit the highway, started to roll. He said, 100 miles an hour, woo, look at me go. Thought he had everything under control. And I'm talking to highway patrol. He got caught in the middle of the night. Oh, Lord, something on the slide. Found him a woman way across town. He said, I'll be real cool this time and keep it on the low down. Thought he had a fool, he was doing all right. But what goes on in the dark will surely come to light. He got caught. Bene, questo era Elvin Bishop, un artista che non rinuncia a mantenere vivo il rapporto con la grande tradizione, anzi ne dimostra un grande rispetto e un grande calore espressivo nel manifestarlo. Il suo pezzo era intitolato Can't Even Do Wrong Right, un pezzo che dà il titolo anche all'album pubblicato proprio nel 2014. Elvin Bishop appunto è uno di quegli artisti che porta avanti il grande segno del blues tradizionale, anche se in alcuni pezzi poi esprime anche una maggiore contemporaneità rispetto per esempio a quello che abbiamo ascoltato stasera. Sicuramente molto ben preparato, un bel timbro, una valida preparazione anche strumentale. Dopo Elvin Bishop stasera ci ascolteremo una tra le più interessanti blues woman internazionali, almeno fra quelle che io ho avuto il piacere di conoscere, di ascoltare, di promuovere nei miei programmi. La considero sicuramente tra le più interessanti Joan Shaw Taylor, che sempre nel 2014 ha realizzato un CD intitolato The Dirty Truth, dal quale noi ci potremo ascoltare Mud Honey, veramente una grande performance di questa straordinaria artista, Joan Shaw Taylor. Buon ascolto. Take her. E beh, questa è un'artista completa, veramente molto brava. John Shaw Taylor esprime sempre grande potenza, grande carica, sia come vocalist sia come chitarrista, veramente straordinaria, veramente un'energia coinvolgente, stimolante. John Shaw Taylor ce la siamo potuta ascoltare dal CD The Dirty Truth, pubblicato nel 2014, e il pezzo che avevo selezionato per voi era intitolato Mud Honey. E adesso, dopo John Shaw Taylor, andiamoci ad ascoltare per la prima volta in Blues Fires The Grand Bond Organization. È un gruppo particolare che si è espresso molto bene nelle sue intenzioni musicali in questo CD intitolato The Sound of 65 and There's a Bond Between Us, un titolo lungo e complesso. The Grand Bond Organization stasera ci farà ascoltare da questo CD Have You Ever Loved a Woman? Buon ascolto quindi con The Grand Bond Organization. Have you ever loved a woman? Loved her with your whole heart and soul? Oh, have you ever loved a woman with your whole heart and soul? Have you ever known the pain of parting when your baby says, darling, you gotta go? The first faint blue of dawn, the first bright light of day, the empty space beside me where my baby used to lay. Oh, loved a woman, loved her with your whole heart and soul. Have you ever known the pain of parting? Ooh, when your baby says you gotta go. Oh, not rich no more. Yeah. Did you ever know a woman who loved you when you're not rich no more? When you lost all your money, yeah, She says, Jack, I better go and show you the door, yeah. Footsteps up and down, walking round and round. Oh, be so blue and lonely since my baby left this town. Oh, have you ever known a woman? Yeah, love her with your whole heart and soul. Have you ever known you paid a pardon when your baby says, Jack, you gotta go? E questa era la particolare band The Graham Bond Organization, che dal CD, dal lunghissimo titolo The Sound of 65 and There's a Bond Between Us, ci hanno fatto ascoltare Have You Ever Loved a Woman, una loro composizione originale che ci ha riportato appunto alle sonorità del blues degli anni 60. Una band che rivive con grande amore, con grande passione, una certa tradizione blues che ha lasciato ancora evidentemente il segno in molti bluesmen contemporanei. Le sonorità sono particolarmente evocative, sono coinvolgenti e quindi è riuscita, secondo me, l'operazione di voler ricreare certe ambientazioni. Adesso passiamo al secondo gruppo di blues italiano, un particolare ed interessante gruppo che si presenta per la prima volta in Blues Fires. Il nome di questa band è Quarter Dollar Blues Band ed è formata da Umberto Zini alla voce, Valentina Vanini alla voce, Vincenzo Leone al basso, Michele Barbacini alla batteria e poi i due chitarristi del gruppo, uno è Jacopo Zini e l'altro è Matteo Gaccioli. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è una composizione originale del gruppo, in quanto la musica è del chitarrista Jacopo Zini e i testi sono di Umberto Zini, il vocalist, e Matteo Gaccioli, l'altro chitarrista. Il vocalist di questo pezzo è Umberto Zini e il titolo è Bevo Poco. E io non posso che applaudire aggiungendo tra parentesi, bravo, almeno elimini la possibilità di farti venire una cirrosi epatica. E quindi buon ascolto con Quarter Dollar Blues Band. al quarto mojito e non ricordo avevo detto che guido. Mescolo tutto altrimenti non strippo. Dopo la vodka mescolo lo zippo e non mi ricordo neanche il nome che hai. Bene, questo era il gruppo di Quarter Dollar Blues Band formato da Umberto Zini alla voce, poi avevamo Vincenzo Leone al basso, Michele Barbacini alla batteria, Matteo Gaggioli e Jacopo Zini alle chitarre. Il pezzo che ci siamo ascoltati era una composizione originale intitolata Bevo Poco, in realtà la canzone dice tutt'altro, l'invito è sempre quello di essere equilibrati in questo, perché poi si pagano le conseguenze, quindi io credo che sono convinto del fatto che noi stessi dobbiamo essere le prime persone a volerci bene. Dico sempre che dobbiamo essere nostro padre e nostra madre per primo, cercare di volere bene a noi stessi. Se poi si pensa che il concetto fondamentale del nostro vivere quotidiano, ama il prossimo tuo come te stesso, parte da voler bene appunto a noi stessi, ad amare noi stessi. Se non siamo capaci di amare noi stessi, sicuramente avremo difficoltà anche ad amare il nostro prossimo. Quindi cerchiamo di essere equilibrati, di divertirci, di stare bene in compagnia, di fare le cose che ci piacciono, ma anche avere cura di noi stessi. Bene, dopo questa paternale ricordiamo che cosa ci siamo ascoltati. Ci siamo ascoltati appunto Quarter Dollar Blues Band, pezzo originale Bevo Poco, e il CD è intitolato Lascia Spento. Bene, dopo Quarter Dollar Blues Band è il momento di ascoltarci Leslie West. Leslie West nel 1999 pubblicò un bel disco che era intitolato As Fat As It Gets, e da questo CD io vi voglio proporre Stormy Monday, che è uno dei pezzi che mi ha colpito maggiormente. Leslie West, buon ascolto. Call it Stormy Monday, and two Questo era Leslie West, veramente una forza della natura. As Fat As It Gets era il CD pubblicato nel 1999 e noi ci siamo ascoltati uno dei pezzi più forti di questo CD, intitolato Stormy Monday, il pezzo che mette in evidenza le grandi qualità di questo artista, grande vocalist, potente, forte, espressivo e anche musicista di primo ordine, che riesce sempre a sottolineare con frasi veramente coinvolgenti ogni parte della composizione. Andiamo avanti adesso con un'altra artista molto interessante che nel 2015 ha realizzato il suo ultimo CD intitolato Oh Yeah. Si tratta di Mahalia Burns and the Soulmates, una cantante veramente di primo ordine che potremo ascoltare in If I Am Luck I Might Get Pick Up. Buon ascolto con Mahalia Burns and the Soulmates. Questa era la straordinaria voce di Mahalia Burns and the Soulmates, veramente brava questa cantante, una tra le più interessanti vocalist internazionali del momento. In questo CD intitolato Oh Yeah, pubblicato proprio quest'anno, c'è come special guest anche il grande Joe Bonamassa. Il pezzo che ci siamo ascoltati stasera è intitolato If I Am In Luck, I Might Get Pick Up. E chiudiamo questa nostra puntata con la grande tradizione che ci porterà ad ascoltare Big Bill Bronzy dal CD Trouble In Mind. Noi potremo ascoltarci I'm Gonna Sit Down At The Festing Table. Buon ascolto con Big Bill Bronzy. Tell God how I'm treated some of these days. Oh, I'm gonna sit at a feasting table. I'm gonna sit at a feasting table some of these days. Hallelujah. Now, I'm gonna sit at a feasting table. I'm gonna sit at a feasting table some of these days. With love, my Jesus. I'm gonna feast with my Jesus some of these days. Hallelujah! Now, I'm gonna feast with my Jesus. I'm gonna feast with my Jesus some of these days. Oh, I'm gonna tell him all about my troubles. I'm gonna tell him about my troubles some of these days. Hallelujah. Now, tell him all about my troubles. I'm gonna tell him all about my troubles some of these days. I'm gonna feast on sweet milk and honey. I'm gonna feast on sweet milk and honey some of these days. Hallelujah. Now, feast on sweet milk and honey. I'm gonna feast on sweet milk and honey some of these days. I'm gonna sit at the feasting table. I'm gonna sit at the feasting table some of these days. Hallelujah. Now, I'm gonna sit at the feasting table. I'm gonna sit at the feasting table. Some of these. E con questo pezzo del grande Big Bill Bronzy intitolato I'm Gonna Sit Down at the Festing Table, tratto dal CD Trouble in Mind, si conclude anche la puntata numero 64 di Blues Fires. L'appuntamento è come sempre a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.